Guarda, il Centro Risorse LGBT è un'associazione non di comunità, quindi noi ci occupiamo principalmente di ricerche, formazione e sensibilizzazione. È ovvio che questa giornata ci fa comodo per dare visibilità ai nostri lavori. Quindi quello che uscirà quest'anno e sta uscendo è una ricerca che si chiama Be Proud, Speak Out, è il risultato di una ricerca appunto che abbiamo svolto l'anno scorso sugli studenti LGBT nelle scuole italiane, e l'altra iniziativa che uscirà domani, proprio in occasione del 17, è un sito, è la messa online di un sito per denunciare crimini d'odio, quindi tutte discriminazioni basate su orientamento sessuale, identità di genere non conforme, legate al territorio bolognese. Questa iniziativa serve quindi per raccogliere dati. Cosa si vuole fare poi con i dati raccolti? Dati di questo tipo non esistono in Italia, questo è il punto da cui partire nel ragionamento, e ci sono alcuni strumenti di monitoraggio nazionale, ad esempio l'OSCAD, però non essendoci una legge nazionale contro l'omo, bi, lesbo, transfobia, è difficile che questi dati vengano rilevati nella maniera più corretta. La nostra raccolta vuole, da un lato, quantificare il fenomeno, metterlo in luce, dimostrare che esiste, e dall'altro vogliono dare una spinta alla legge regionale contro l'omofobia, l'omonegatività. Proprio a proposito della legge regionale che ancora non c'è, per domani è stato annunciato un presidio, perché si è reso necessario proprio andare sotto la sede della regione, e qual è stato finora l'atteggiamento della regione rispetto a questo tema? Questo è un argomento complicato, non te lo nego, però io penso che la comunità LGBT abbia assolutamente ragione a farsi sentire. Lo abbiamo fatto in tante occasioni, anche in passato, anche recente, quando le strutture politiche sono un po' lente nel dare peso alle nostre necessità. Quindi credo che questo presidio sia molto utile per dare visibilità, dare importanza, riportare nell'agenda politica le nostre tematiche che troppo spesso invece sfilano giù dalle priorità. C'è una forte incidenza nel territorio bolognese che rende necessaria una legge regionale. L'incidenza c'è ovunque, quindi questo, ti ripeto, non avendo dei dati nazionali è difficile da dire, però come le persone omosessuali, le lesbiche, trans eccetera sono ovunque, così le discriminazioni sono ovunque. Sicuramente l'anno scorso la legge sulle unioni civili ha modificato un panorama che prima era assolutamente senza nessuna legge, nessuna tutela legale. Adesso qualcosa c'è, per quanto quella legge sia limitata, però qualcosa si è mosso. Questo, da un altro lato, oltre appunto a dare dei diritti, ha portato anche delle preoccupazioni, cioè la visibilità a volte può invece essere oggetto di discriminazione. Quindi sicuramente è un fenomeno che va monitorato, e credo che l'Emilia Romagna o il territorio bolognese non siano assolutamente esenti. Proprio un'ultima domanda a proposito di Bologna. C'è stato proprio in questi giorni un divorzio, diciamo, tra le associazioni arcigay e arcilesbica a Bologna. Volevo un commento su questo punto, proprio in vista di un evento che in realtà dovrebbe unire le diverse comunità. Questo è un tema spinoso. Arcilesbica nazionale ha preso delle posizioni molto forti negli ultimi anni. La realtà locale di arcilesbica, cioè arcilesbica Bologna, si è staccata da Arcilesbica Nazionale ed è diventata un'associazione che si chiama Lesbiche Bologna. Lesbiche Bologna ha sede presso la Salara, il Cassero. Ovviamente, essendo i rapporti molto buoni tra Arcigay, il Cassero, e Lesbiche Bologna, credo che dire ad Arcilesbica Nazionale, che ha opinioni politiche completamente contrastanti, che non sono più, come dire, benvenute fra tante virgolette in quella sede, non credo che sia una cosa assurda o sbagliata. Quindi non ci vedo nulla di strano. In fin dei conti le associazioni hanno opinioni diverse, per quanto spesso si lotti per lo stesso obiettivo di, come dire, a lunga gittata, ma nelle pratiche politiche ci sono delle differenze, e non credo che sia stato un gesto particolarmente strano da farsi. Quindi un problema politico? Assolutamente.